Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Eccoci qui, di nuovo insieme per una nuova puntata di Radio Next. Oggi incontriamo Paolo Enrico, l'amministratore delegato di Maxphone, una società con sede a Milano, Verona e, attenzione, Austin in Texas, la patria, una delle patrie delle startup americane, che ha creato e ha costruito il progetto Social Meter. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, raccontaci un po' che cos'è Social Meter. Ma Social Meter è una divisione che è nata all'interno di Maxphone circa 5 anni fa, quando abbiamo deciso di intraprendere una nuova avventura nel mondo dei big data, perché avevamo intuito che questo tipo di mercato sarebbe stato il mercato, uno dei mercati del futuro. E quindi 5 anni fa, in tempi non sospetti, abbiamo iniziato questa avventura con tanto vento contro, perché parlare 5 anni fa di big data era molto complesso. Sì, assolutamente. E in che cosa consiste il servizio? Ma diciamo che noi tecnicamente siamo un data provider. Di fatto acquisiamo ogni giorno dati online da più fonti, fonti web, fonti social, altre tipologie di fonti che possono essere quelle legate alla mobilità, e ogni volta che raccogliamo questo tipo di informazione, l'informazione viene conservata e viene analizzata, e ogni volta che noi analizziamo, facciamo un processo di analisi, aumentiamo il valore di questa informazione. Queste informazioni poi possono essere cedute, vendute a aziende che hanno bisogno di capire, per esempio, il comportamento degli utenti in modo particolare. Chi sono i vostri clienti tendenzialmente che si rivolgono a voi, e con quali finalità? Ma nell'ultimo anno stiamo lavorando con una ampia eterogeneità di clienti, quindi stiamo lavorando chiaramente su quella tipologia di clienti che hanno un rapporto diretto col cliente finale, quindi non so, tutto il mondo del food, del fashion, del beverage, dell'automotive, ma nell'ultimo periodo anche con aziende che lavorano nel manufatturiero, nel fintech, nell'assicurativo. Quindi tutte, diciamo che oggi è importante capire qual è l'esperienza di utilizzo del bene e del servizio, quindi di fatto potremo lavorare per qualsiasi tipo di impresa o qualsiasi tipo di cliente. Quando voi lavorate su questi dati, ci hai raccontato prima che le fonti sono le più eterogenee. Sì. Sono anche fonti tradizionali, fonti online, il catasto piuttosto che l'anagrafe, ammesso e non concesso che questi dati ovviamente siano disponibili e siano da voi acquistabili. Bah, tecnicamente sì, cioè tecnicamente siamo in grado di raccogliere qualsiasi tipo di flusso di dati. Alcuni dati sono facilmente reperibili con delle tecnologie di acquisizione open, altri devono essere invece generati da flussi. Quindi nell'esempio che facevi te, potremmo anche andare a prendere dati pubblici di catasto e portarli all'interno delle nostre piattaforme. È chiaro che quando si parla di big data si parla veramente di milioni, se non miliardi, di informazioni, quindi poi, visto che noi facciamo analisi, bisogna capire bene qual è il challenge che hai sul cliente, quindi da big si passa sempre poi a lavorare su smart, quindi l'obiettivo oggi per esempio è quello di andare ad acquisire i dati che effettivamente poi ti servono per la ricerca. Quindi per esempio tecnologicamente si è passata da quella che una volta si chiamava listening, okay, quindi ascolto tutto, a quella che tecnicamente oggi chiamiamo crawling, cioè vado a prendere un'informazione che è veramente propedeutica all'analisi finale, quindi non raccolgo tutto perché non potremo neanche essere Google, quindi ascoltare tutto quanto. Certo, quindi andate a raccogliere solamente gli elementi che ritenete o che i vostri algoritmi ritengono più rilevanti per un determinato brand. Assolutamente. Ma quello che voi fornite poi al cliente è un insieme di dati, e il cliente poi ha bisogno di metterci sopra il brain, cioè metterci sopra la testa per poterli leggere, oppure, e quindi deve avere dentro delle competenze specifiche di data scientist, oppure voi fate anche la consulenza su questi dati, o li date a fornitori, consulenti che lavorano con il cliente per integrare il lavoro che fa il consulente? Ma allora, i modelli ancora non sono proprio così consolidati, cioè potrei risponderti che lavoriamo in tutte e tre le case history, nel senso che abbiamo dei clienti che si stanno o si sono strutturati con un team di analisti all'interno, questi data science, che oggettivamente sono difficili da trovare, difficili da costruire, perché sono figure che devono avere, spesso sono dei team e devono avere, diciamo, una eterogeneità di preparazione molto ampia, cioè devi avere il filosofo, devi avere il tecnico, devi avere quello del marketing, quindi questo team qua è un team che di solito deve avere più discipline all'interno. Quindi ci sono realtà che si stanno strutturando in questo modo, altre che non hanno la forza e la capacità per fare questo, e quindi chiedono a noi tutta la parte di analytics, quindi molto spesso il nostro lavoro su questi clienti qua sono lavori dove c'è proprio un'analisi, un reporting su una particolare esigenza, sul prodotto, sul servizio. Se tu dovessi dare uno spaccato del vostro lavoro tra lavoro umano del data scientist e lavoro del machine learning e dell'intelligenza artificiale, in percentuale, come lo divideresti? Ma allora, in questo momento qua direi che il machine learning oggi riesce a sostenere le attività intorno al 60-70%, dipende poi molto da... Mentre c'era ancora una forte componente umana, ma è giusto anche che sia così in questa fase qua, anche perché noi ma stiamo... Ma il trend è verso diminuire l'impatto umano o è aumentarlo? No, il trend è quello di fornire, diciamo, quelle che noi chiamiamo KPI, che permettono poi all'analista di fare un lavoro di maggior qualità e di maggior sintesi. Cioè la sintesi tendenzialmente la fa la persona, la fa l'umano, e questo è un aspetto comunque interessante di questo tipo di lavoro, perché queste persone, questi team qua, lavorando su più clienti, su più mercati, acquisiscono poi questa diciamo flessibilità di lavorare su modelli diversi in tempi molto rapidi, molto veloci, ed è una competenza tipica delle persone. Quindi io spesso racconto questa idea che una volta lavoravamo per modelli a regole, oggi la confidenza ce l'ho nel crearmi modelli a regole in tempo reale con queste tecnologie che mi aiutano. Però la componente umana, secondo noi, secondo me, è ancora molto importante, lo sarà. Quindi diciamo che il ruolo umano è a monte a valle, a monte sì, per costruire insieme al cliente il brief da dare alla macchina, quindi le istruzioni da dare alla macchina per poter lavorare, e a valle interpretare i dati e le informazioni che la macchina ha raccolto e ha sistematizzato. Esattamente. C'è da dire che più passa il tempo, più è tipico del machine learning, più le macchine cominciano a fornirti informazioni che riescono a ottimizzare, per esempio, queste fasi di pre-analisi, questi audit che facciamo con i clienti. Per esempio, oggi ci sono alcune agenzie che usano le nostre tecnologie per capire qual è la miglior modo per raccontare il prodotto attraverso l'analisi che facciamo delle foto. Quindi sapere che per un determinato tipo di prodotto, di vino, il giallo è una componente di colore che ha sicuramente un'alta percentualità di successo nel momento in cui genero dei contenuti, questo mi facilita molto già nella fase creativa. È chiaro che nel lavoro che facciamo, visto che ogni giorno acquisiamo dati e acquisiamo esperienze, e su queste esperienze diciamo accumuliamo poi valore, questo ci permette, più passa il tempo, di avere già tutto un set di informazioni che facilita molto il lavoro delle persone. Quello che hai appena descritto è quello che Maeda in qualche anno fa ha definito computational design, cioè la creatività che viene influenzata dai dati. Fino a ieri la creatività era un territorio, come dire, una prateria sgombra da regole per l'uomo, oggi invece incomincia ad avere dei paletti. Certo. E qui mi collego però a una domanda che mi sta particolarmente a cuore, Paolo. La mia impressione, un po' per le mie attività di docenza all'interno dell'università, marketing, economia, mi ha fatto percepire che gli studenti, i ragazzi, ci sia una fetta importante di ragazzi che non vogliono studiare i numeri, o che si tengano il più lontano possibile dai numeri. La mia percezione invece è che tutto è sempre più influenzato dai numeri, e tutto è guidato sempre di più dai numeri, nel bene o nel male. Poi, come sempre, ci saranno dei picchi, si tornerà un pochino indietro, si assesterà. Però quel mettiamo il dito fuori dalla finestra per capire dove tira il vento e quindi poi andiamo verso quella direzione, funziona sempre, sempre meno. Qual è il tuo punto di vista? Secondo te gli studenti, i ragazzi, i giovani, come si stanno comportando nei confronti dei numeri? Ma sul discorso dei numeri c'è una complessità in termini di consapevolezza che riguarda un po' tutti, quindi non soltanto i giovani, per esempio. Vero, però okay. Scusami, io un manager cinquantenne lo perdono un po' di più che non un giovane che tende a starne lontano, perché il manager cinquantenne, il sessantenne, insomma, fa più fatica, diciamocela tutta, fa più fatica non perché sia sciocco, non perché non ci possa arrivare, perché la logica che sta dietro l'applicazione di nuove metodologie che sono guidate da numeri, quando prima non lo erano, erano guidate dagli insight qualitativi, è più facile, era più facile da gestire, oggi diventa più difficile. Per un giovane che, insomma, dire, è veramente prateria, riuscire invece a incominciare a ragionare fin dall'inizio con i numeri, oppure rifiutarli, Insomma, fa un po' la differenza, no? Certo. Sì, no, beh, sicuramente interessante. Tra l'altro noi collaboriamo con tantissimi atenei, con tantissimi dipartimenti, quindi i giovani sono costantemente all'interno dei nostri staff, all'interno dei nostri team, e la percezione che ho io è che comunque ci sia una grande maggioranza di questi ragazzi qua che comincia a essere consapevole di quanto i numeri possono essere interessanti. È un problema di percezione, di consapevolezza. Cioè, nel momento in cui capiscono il valore dei numeri, spesso si affascinano. Noi abbiamo dei ragazzi che veramente, poi li abbiamo anche assunti, lavorano da noi e hanno questa cura, questa attenzione nella gestione del dato, del numero, che è veramente interessante da questo punto di vista. C'è anche un altro atteggiamento, che è quello del rifiuto totale, perché c'è anche questa forma qua, no? Nel senso che comunque lo stiamo vedendo nelle nuove generazioni. Cioè, noi conosciamo bene la generazione millennia, stiamo cominciando a vedere, per esempio, che le nuove generazioni tendono, almeno nel loro pensiero, a sfuggire, per esempio, di alcuni media, alcuni social, sì, media. In realtà poi li trovi magari su altri media che sono magari nuovi, tipo TikTok, li trovi lì, e quindi in realtà c'è un processo anche legato a nuove forme di comunicazione che comunque sta cambiando. Quindi direi che nella maggior parte dei casi chi è consapevole è comunque affascinato da questo mondo. Ma tu suggeriresti, non solo ovviamente a questo punto agli studenti, ma in generale ai manager, ai professionisti, di orientare comunque i loro approfondimenti di formazione anche sul mondo dei numeri? Assolutamente sì, cioè, nel senso che noi continuiamo a dire che nel futuro le aziende e le imprese saranno guidate sempre di più dai numeri, e quindi il concetto di data driven è un concetto che è fondamentale a prescindere. E io qualche volta esagero quando parlo ad alcuni convegni, dico che ci saranno due tipi di aziende: le aziende data driven e le aziende che saranno morte. Magari capiterà in 5 o 6 anni, ma è così. Se guardiamo i grandi player, le famose FAG, quindi Facebook, Apple, Amazon e Google, ci mettiamo anche Alibaba, fondano il loro successo principale sulla conoscenza dei numeri. Cioè, loro trasformano i comportamenti degli utenti, i bisogni degli utenti, in numeri, e su questo fanno delle strategie estremamente interessanti. Verissimo, però quelle che hai citato sono tutte aziende che sono partite da un foglio bianco. Io immagino invece un'impresa come la Impregilo, che insomma non è un'impresa che è nata oggi o che è una startup innovativa, che non parte da un foglio bianco, certo, che nasce già con delle regole interne, che nasce già con un'organizzazione, con una struttura. Passare a questo tipo di metodologia è più difficile per loro o no? Beh, certamente sì, perché come dicevi te prima c'è anche un aspetto di tipo generazionale. La generazione baby boomer, cioè un po' la mia, è sicuramente la grande muraglia al cambiamento, però è un'onda che non si può fermare. Può piacere oppure no, chiaramente quando si parla di dati, di comportamenti, c'è sempre questa diciamo doppia valenza, questa percezione anche di negatività rispetto a questo tipo di informazioni. Però secondo me la chiave di lettura, se la vogliamo portarla sul business, ed è un po' il lavoro che facciamo noi, è che per esempio oggi in qualsiasi tipologia di business non puoi permetterti di non capire o di non conoscere quello che vuole il cliente finale. Mm-hmm. Quindi se l'idea è parto nel mappare quello che è il bisogno, che è la cosa più complessa ma è il sacro graal dei marketer, forse riesco a capire dal comportamento e da questo tipo di analisi che necessariamente devo cambiare qualcosa in azienda. Questa è una grande spinta. Okay. È una grande spinta anche per i top manager, perché capiscono che necessariamente va fatto qualcosa. Quindi quello che io spingo è appunto cercare di partire da quelli che sono i bisogni del mercato, del cliente finale. Paolo, mi fai un paio di esempi di insight che avete ricavato dai dati? Prima mi hai fatto quello del giallo con il vino, ma qualcos'altro che puoi, giusto per far capire ai nostri ascoltatori? Per esempio, noi per un'azienda molto importante del vino abbiamo mappato i comportamenti di acquisto nei paesi scandinavi. Mm-hmm. Quindi abbiamo analizzato che chi acquistava il vino era nella fascia millennia, era una donna. Peccato che tutta la comunicazione di quel vino, di quasi tutte le aziende vitivinicole, erano sul genere maschile, con degli stereotipi che erano completamente diversi da quelli che erano poi l'utilizzatore finale. E quindi in questo caso l'azienda ha orientato la sua comunicazione in un genere che poteva essere neutro, quindi andava bene sia per il genere maschile che femminile, oppure ha fatto delle campagne dedicate all'effettivo target che acquistava il bene. Ma ti faccio una domanda cattiva, però allora questo non era un'informazione che si poteva raccogliere con una ricerca di mercato sul campo? Allora, la ricerca di mercato sul campo hanno un grande limite, che lavorano su un numero di campione molto basso. Ti faccio un altro esempio. Se io raccolgo 220.000 foto che hanno a che vedere con l'Amarone, sì. Circa magari 50.000 esperienze di 50.000 utenti, il set di informazione che è molto più alto, certo, rispetto ad avere un campione che fanno altre aziende di ricerca che lavorano su campioni base 100 o addirittura base 500, ha dei costi veramente allucinanti. Oggi per esempio noi siamo in grado di dire che la verdura più abbinata alla marone paradossalmente è la rucola, ma perché abbiamo visto che raccogliamo tante foto con pizza e sopra la pizza c'è la rucola, che è già un comportamento anomalo, perché la marone normalmente va proposto con le carni, perché è un vino strutturato. Certo, assolutamente. Un'altra cosa interessante che abbiamo scoperto con la marone è che viene proposto per la coppia. In realtà noi abbiamo, nei millennials, raccogliamo migliaia di foto dove il vino è consumato da 3, 4, 5, 10 persone. È un vino molto più sociale, molto più conviviale, molto più sociale, che non un vino di relazione uno a uno. Sta cambiando il target, cioè molto ovviamente nel Chiaro. Target baby boomer il vino era un vino di alta fascia che aveva un certo tipo di prezzo, che veniva consumato in un certo modo. Oggi le nuove generazioni non si fanno problemi a prendere due bottiglie di Amarone e mangiarle con l'hamburger o con la pizza, perché i modelli sono completamente cambiati. È chiaro che questo tipo di informazione è un'informazione che permette di orientare poi le scelte di marketing e di comunicazione con dell'azienda stessa. Per esempio, siamo in grado, per farti un altro esempio, di mappare le fasce di età. E questo lo facciamo, tra l'altro, con tecnologia nostra, italiana, ok? In piena compliance col GDPR. Su che cosa lo fate? Noi raccogliamo la foto e abbiamo un algoritmo che è in grado di riconoscere sulla foto le persone che ci sono, il sesso, l'età, con una percentuale di successo del 97%. Straordinario. Quindi possiamo affermare che nella fascia che sta tra i 18 e i 25 il consumatore è donna, ma lo riusciamo a fare su un volume di contenuti molto alti, di esperienze molto alte, e con una precisione molto alta che non è quella della statistica, certo, tradizionale. Paolo, un'ultima curiosità prima di salutare i nostri ascoltatori. Austin, perché in Texas? Perché Austin dopo Milano e Verona? Bah, noi abbiamo passato anni dove ci sentivamo dire che eravamo troppo avanti. Ho detto, vabbè, senti, prendiamo la valigetta e andiamo dall'altra parte, andiamo nel paese dove sono più avanti. Avevamo due opzioni, avevamo la California e avevamo per caso, perché poi nella vita ti capitano le cose per caso, e siamo capitati a Austin, abbiamo fatto un primo deal con una società che faceva questo tipo di scouting, e la persona che ci ha fatto questo scouting poi ha deciso di aprire con noi questa società. Austin, magari tante persone non lo sanno, ma dopo Silicon Valley Austin è la capitale del digitale, già sono dei grossi investimenti, le major sono... Beh, Dropbox è nata lì, per esempio, ma... South by Southwest è il festival sull'innovazione. Bravissimo. Popular pop più importante negli Stati Uniti, sono quasi 15 anni ormai, anzi di più, 20 anni quasi che c'è. Pixar è lì, DreamWorks è lì, c'è tutto il digitale del movie, si è già trasferito, certo, lì. Chiaramente il Texas non è la California, però la vita in Texas costa la metà, quindi tanta gente della California sta arrivando in Texas perché si è trasferita, ha aperto dei campus Google, Apple, certo, Facebook. Peraltro Austin non è il Texas. Austin non è il Texas, bravissimo. Perché Austin è l'unica città democratica, bravissimo, fortemente democratica, in uno stato conservatore, sì, invece sì, repubblicano, fortemente repubblicano. Austin, Silicon Valley... Seattle, diciamo i tre, sì, come dire, hub dell'innovazione digitale. Tu consiglieresti alle startup strutturate ormai italiane di prendere la valigetta come avete fatto voi e di andare dall'altra parte degli Stati Uniti, o proprio non è per tutti? Allora, in modo molto franco e sincero, se tu hai un sogno, sei convinto di questo, io lo consiglio a tutti, perché le opportunità che ci sono oggettivamente sono completamente diverse. Magari avere più coraggio e andare in California, se si ha un'idea giusta, può essere la chiave di successo, perché io sono stato poco tempo fa in Silicon Valley, esiste un ambiente, un acquario che è soltanto lì. Cioè Austin ancora non è quello che è in Silicon Valley, perché le condizioni anche storiche sono completamente diverse. Quindi sì, io lo consiglierei, perché se... in Europa ancora facciamo fatica. È vero che la comunità europea ha un piano molto importante sul digitale, però noi abbiamo un gap infrastrutturale non banale. perché le aziende che citavo prima, le famose FAG, hanno comunque grande capacità di archiviazione e grande capacità computazionale che non riesce a recuperarlo in 2 o 3 anni. Certo. Quindi serve un grande piano europeo. Per esempio in Europa manca un grande data provider. Cioè, se ci pensiamo, non esiste una società che abbia contenuti come quelli che può avere Facebook piuttosto che Amazon o Google. Molto chiaro. Era Paolo Enrico, amministratore delegato di Maxphone, ai microfoni di Radio Next. Grazie mille Paolo. Grazie a tutti voi. Ringraziamo i nostri ascoltatori, Carmelo dall'altra parte del vetro, per averci aiutato a portare a termine questa puntata. Ovviamente questo e tutti gli altri argomenti che noi trattiamo su Radio Next sono sempre disponibili nel nostro podcast dal lunedì, quello esteso. Noi ci sentiamo quindi nel nostro podcast oppure in una prossima puntata di Radio Next a domenica prossima ore 13:45. Un saluto da Pepe Moder.